È un ennesimo noce sul lavoro, tra l'altro noi sottolineiamo che dovremmo smettere di parlare di incidenti perché siamo ormai oltre la linea degli 800 morti sul lavoro quest'anno, siamo ancora a metà settembre. Quello che è successo questa notte all'aeroporto di Bologna è un'ennesima tragedia, ma non è un incidente perché ovviamente gli indagini sono ancora in corso, però ci sono delle procedure, dei dispositivi che se applicati correttamente non renderebbero possibile un fatto di questo genere. Cioè un operaio, da quello che risulta appunto dalle notizie, è rimasto schiacciato da un mezzo pesante durante i lavori di rifacimento delle piste dell'aeroporto di Bologna. Rifacimento delle piste che è un rifacimento programmato, ci sono le date, l'aeroporto viene chiuso in questi giorni di notte, da mezzanotte credo fino all'alba. Se c'è personale sufficiente, se ci sono mezzi perfettamente funzionanti con i cicalini, se c'è l'addetto alla manovra esterno al mezzo pesante, se c'è abbastanza illuminazione, ovviamente se i carichi di lavoro non sono eccessivi, non si capisce come una roba di questo genere possa accadere. Perché tecnicamente sarebbe appunto impossibile se le operazioni hanno la dovuta sorveglianza e rispetto delle norme sulla sicurezza che un lavoratore, un operaio possa venire schiacciato dal mezzo, se vengono confermate le notizie di questa notte. Quindi per noi non esistono incidenti, ci deve essere l'accertamento delle responsabilità. Perché ovviamente sappiamo benissimo qual è la logica che sta dietro questo tipo di lavori, come nel mondo del lavoro in generale. Io ho letto le dichiarazioni dell'aeroporto che scrive condoglianze, il piano di solidarietà, le dichiarazioni dell'istituzione a partire dal sindaco Lepore, eccetera. Parlano sempre di mancanza della cultura sicurezza, ma una cultura c'è in questo paese ed è una cultura padronale e imprenditoriale che vede nel rispetto delle misure a tutela della salute e sicurezza di chi lavora solo un costo da ridurre per aumentare i profitti e l'efficienza dell'azienda. Questa è una roba che noi riteniamo non accettabile e a partire anche da questa ennesima tragedia noi vogliamo anche rilanciare decisamente la campagna che stiamo portando avanti da ormai dall'inizio di quest'estate, che è quella per l'introduzione del reato, ma perché manca in Italia questo, l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro e per lesioni gravi e gravissime ai danni della lavoratrice e lavoratore. Noi riteniamo che ci debba essere un inasprimento delle pene, delle misure per questo tipo di comportamento padronale e che la soluzione sia intanto una modifica dell'attuale normativa del testo unico della sicurezza che permette ai lavoratori e alle lavoratrici di controllare, di far applicare queste norme. C'è bisogno di organizzazione dei posti di lavoro e quindi noi vogliamo invitare tutte e tutti a aderire a questa nostra campagna e a firmare la proposta di legge di iniziativa popolare che stiamo raccogliendo le firme in vari banchetti sia nei luoghi di lavoro che nelle piazze delle strade di Bologna.